Conversari, racconti, villotte allontaneranno il sonno fino all'alba. Di turno ancora il pastorello dello Zufolo, nella sua parlata le desinenze della lingua provenzale. Lo vitrinari, alla rompiecca la mestello non poteva rumiare, non faccio così bielo, non podio lo ripiare. Sei sicuro che ero strado, e hai provato a fare di tutto. Benedito, scongiurato, assistuto come un frutto. E vedinca non mi giovavo, al scimpenso mio compare, di ristiamo non provo, di clamare vitrinari. Alle vignun, e da un occhiato, e poi al dish, e crepato. Rustica corifea, la fisarmonica imbracciata dal fedar Casaro, suscitatrice di canti improvvisati. Ma quando il silenzio dirà la stanchezza comune, un'altra voce spirituale incrinerà all'esterno la pace della notte. Una voce senza tempo che tramanda l'anima e insieme con l'anima la poesia della Carnia, profonda quanto un frammento di Saffo. Se sapeste, ragazze, che cosa sono sospiri d'amore, si muore, si va sotterra, e ancora si sente dolore. Se avessi fantasini, c'è che son sospirs d'amor. Su te casere e ven une vilote quartale dal vin, neri sipins, un stelar, un seren, e alistelis darin va la vilote quartale dal vin. Dimmi, sei tu besole, e bionde o more, e non tu pus dormi. Dimmi, c'è astu che nie ti console? Besole come il gri, ti mance al che non tu pus dormi. Io canti par cantà, canti alla lune, e agli stelis dal sì. Soi giovinine, e io soi di maridà, e di fur dal fenil, canti alla lune e agli stelis del sì. Oh frute, princovadi a torpe mont, ciante ancemò così. O soi pastore, o viv come un salvadi pesmons tut quanti il dì. Di bot, min voi, chiante ancemò così. Pastor di queste mon, lo sastu il troi calpase donge gli ov, cumò che di la vie tu sei sul ponte, cumò calduare il lo. Ven capaltroi, calpasse don Geglio. Col primo sole, il commiato. Ecco una donna che affida al pastore la propria mucca, la quale appare insensibile alle tenere parole di lei. Continua infatti a ruminare l'erba fresca di rugiada, imitata dalle altre già al pascolo. Colomba, mi mandi, stammi ben. E tornerai ben su, che attacchi, si porterai ben su. Sì, alto. Torno, porto sì. Su alto, porterò la schiereggia di colomba. La schiappa. È la schiappa, sì, no? Mandi, mo mandi. Ah, ti dici, ma va che mandi, no, mi tu, ah, cagno da ploia. Mandi, Jenny, saluto a lei. All'improvviso, quando la padrona sta per allontanarsi, il saluto della bestia, a suo modo, si intende. E si intende occhi lucidi di lacrime della donna che si volge a guardare la sovaciute. È il pianto stesso di Mariute che invoca il ritorno dello sposo emigrato in Australia. Cence di te non è più allegrie, e non vi sarà allegria nella stalla vuota giù in paese finché non vi ritornerà la colombe esiliata nella malga. Alla Madonna di settembre si sciarie la monte. Mulattiere, canali, villaggi pieni ancora di suoni che avvallano, che si disperdono, rinnovando la melanconia del poeta. Non la finisci in più, tutti i sampogni. In una vasca versa fresca acqua sorgiva. Abbeverata in comune, mandra e gente. Le tinnule voci si spengono nel gorgoglio dell'acqua per riprendere subito dopo lungo il pendio. Frattanto, vaiul soreni, el tiniment la vie sot la pinede, si lusint a pene. La mont Mariane a poc s'indore, spietant che dute di lungu si spandi la notte. O chiarnie, e bench'este l'ore di diti, mandi. Si fa soffiare e anche noi. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, Vita nelle malghe, 24esima trasmissione dedicata agli emigrati. Testo di Chino Ermacora. Musiche originali di Ezio Vittorio. Musiche popolari.